Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, questo è il soundcheck di Radio 24, appuntamento numero 265. Ancora una volta, anche questa settimana, siamo costretti a seguire la musica per non restare indietro, per restare al passo con i tempi. Quindi mi dispiace per gli appassionati di jazz, quelli che sono legati al songbook della tradizione, agli eroi di questa musica. Rimandiamo l'appuntamento con i grandi classici magari al prossimo weekend, alla prossima domenica, quindi alla prossima settimana. Ma questa sera ancora nuova musica, anche perché sono pieno di note e mi scappano da tutti i pori dopo aver ascoltato questo album molto interessante, che vede forse per la prima volta la collaborazione di due etichette importanti. La prima, un'etichetta piccola, indipendente, ma che spinge, come dico spesso, l'acceleratore sul futuro, ovvero Revive Music, e una veterana del jazz, la pluridecorata Blue Note Records. Queste due etichette si incontrano in una produzione che ha un titolo che è tutto un programma: Revive Music Presents Supreme Sonacy, il suono superiore. Che cosa significa? Questo tra l'altro è il volume 1, ovvero una sorta di compilation messa insieme dal lavoro fatto dalla AR, dalla direttrice artistica della Revive Music, la formidabile Megan Stabile, che ha riunito tutti gli artisti della sua etichetta e li ha affidati dati alle cure di un producer d'eccezione come Ryder Ellis, anche bravissimo rapper, docente di produzione hip hop sempre lì alla Berklee College of Music, che ha messo su una produzione veramente interessante, tra l'altro piena di nomi importanti del jazz di oggi. Ne cito alcuni: Marcus Strickland, Morris Brown, Justin Brown, il bravissimo pianista della nuova generazione Chris Bowers, ma ci sono anche Casey Benjamin, che fa parte degli Experiment di Robert Glasper con il suo contralto, il bravissimo batterista Dana Hawkins, Chris Potter addirittura al sax tenore. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, un album da non perdere. Ancora una volta il jazz si fonde con il groove e l'hip hop. Il brano che vi voglio far ascoltare, il primo brano, ne ascolteremo due questa sera, si intitola Let's Wait a While. Let's wait a while. Ve l'avevo detto, un album da non perdere, si intitola Revive Music Presents Supreme Sonacy, e tra l'altro anche questo è un album che troverete con grandissima facilità su iTunes, ma anche andando a visitare un sito di riferimento, noi lo diciamo sempre, che è Bandcamp. Il brano era Let's Wait a While, ma c'è un'altra composizione che vi vorrei far ascoltare per capire il mondo sonoro di questa produzione, che ripeto vede la complicità della etichetta indipendente Revive Music e della meravigliosa Blue Note, che non smette di stupirci con le sue geniali idee. Sì, perché è un'idea quella di collaborare con un'etichetta indipendente per continuare a sfornare nuovi talenti, così come ha fatto la Blue Note a partire dagli anni 50, tirando fuori il talento di musicisti come Lee Morgan e Wayne Shorter, che vengono ricordati all'interno di questa produzione curata dal bravissimo Ryder Ellis. Il brano si intitola Celebration of Life, Life Sweet Awakening, qui al soundcheck di Radio 24, Supreme Sonacy. Soundcheck. Il suono della musica. Puntualissimi dopo l'informazione, di nuovo in contatto con il Groove Master Studio per il soundcheck di Radio 24, e questo era il suono del pianista, tastierista, organista Sean Martin, che noi abbiamo conosciuto insieme al reverendo Kirk Franklin, arrangiatore e direttore della band di Reverend Kirk Franklin, con il quale ha vinto 3 Grammy Award. Un altro l'ha beccato l'anno scorso, il bravissimo Sean Martin, lavorando come arrangiatore per gli Snarky Puppy. Ebbene, 4 Grammy Awards per questo musicista che finalmente pubblica un album a suo nome intitolato Seven Summers. Questo è il primo brano che abbiamo ascoltato, con la partecipazione della vocalist Claudia Melton, era Love Don't Let Me Down. Ma c'è un'altra composizione molto romantica, molto ben arrangiata, c'è una bellissima orchestra d'archi che supporta la voce di Nicky Ross in Have Your Chance at Love, sempre Sean Martin al soundcheck di Radio 24 dall'album Seven Summers. Not exist in my reality. Oh, I believe that chance is more than coincidence. Sound check. Yes. Il suono della musica. First Century Problem è il titolo del nuovo album della vocalist Lauren Desberg. Abbiamo già parlato di questa cantante newyorkese allieva di Gretchen Parlato, che qui ci ha fatto ascoltare He Loves and She Loves. E da Lauren Desberg passiamo, per chiudere in bellezza questo appuntamento del nostro soundcheck, al suono del quartetto, jazz quartet di Mark Guiliana, batterista della nuova generazione, nato nel 1980, musicista molto apprezzato per il suo drumming pirotecnico, grandissimo senso del groove, musicista che conosce la tradizione del jazz, ma molto richiesto anche da formazioni che musicalmente si muovono anche su versanti elettronici. Infatti una delle formazioni più in voga negli ultimi anni a New York è proprio la sua, si chiama Beat Music, un trio con chitarra e basso, e soprattutto lui dietro ai suoi tamburi e dietro a pad elettronici per creare delle basi ritmiche che sembrano addirittura dei veri e propri campioni, ma è lui in persona che riesce a realizzare tutto ciò. Molto spesso si affaccia in Italia Mark Guiliana per delle masterclass di batteria, molto seguito e molto amato dai suoi colleghi che lo vogliono nelle loro band, come Avishai Cohen, Brad Meldau, Lionel Lucky, Jason Lindner. Insomma, Mark Guiliana è un musicista di riferimento in questo momento, che sforna un album nuovo dal sound tipicamente jazz in questa occasione, quindi lascia l'elettronica per coinvolgere così Shy Maestro al pianoforte, Jason Rigby al sax, Chris Morrissey al contrabbasso. Il brano che vi presento è una ballad, un brano molto romantico scritto da Mark Guiliana, si intitola 2014, e con Mark Guiliana io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo 19:15 sempre qui su Radio 24, pronti per il soundcheck. A tutti voi buona serata e buona musica e buona settimana naturalmente da Gigi Telesforo.